dell'autunno, il mondo vuol sfiorire, offra al cielo spade calpestando la lealtà. Cresce ed uccide nel tempo. La sua umanità.